bossa nova in versione jazz, un easy listening quanto mai gradevole nella nostra colonna sonora di prima mattina, come mattiniero e Fabio Troiano qua in diretta telefonica con noi. Buongiorno Fabio, benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno. Siamo a Crevalcore, sapete che seguiamo il cartellone di Tre Teatri per Te, è uno slogan un po' difficile per il mio difetto di pronuncia e un cattivo rapporto con la R, ma farò del mio meglio per pronunciarlo in maniera scorrevole. Siamo all'Auditorium Primo Maggio, sarà alle ore 21 di mercoledì 31 gennaio, Fabio Troiano in Racconti Neri e altre storie di Peppe Carvaglio. Sarà uno spettacolo in musica, il testo e dell'autore Manuel Vasquez Montalban. Allora, iniziamo la nostra conversazione parlando di Peppe Carvaglio. Magari non lo conoscono tutti, Fabio, ci puoi dire qualcosa di più? Beh, Peppe Carvaglio è un personaggio immaginario, però alla fine tanto immaginario non è, perché sembra veramente di conoscerlo. Per la scrittura di Montalban ne ha fatto un personaggio che sembra assolutamente reale. È un ex componente della CIA, sì, che ad un certo punto diventa un investigatore privato. Vive a Barcellona e vive in una villetta. È proprio descritto nei minimi particolari ed è incredibile come Montalban riesca a farlo diventare un personaggio reale. Poi si sono fatte anche delle serie TV e alla fine molte persone, chi è appassionato è come se fosse un po' suo amico, ecco. E la caratteristica principale di Montalban è che si butta in questa Barcellona nera per indagare e investigare degli omicidi e la risoluzione di omicidi che gli vengono commissionati. Peppe Carvaglio nella narrazione è appunto personaggio di fantasia, ma che ha militato nelle file dell'antifranchismo ed è stato anche in prigione per questa attività politica e poi si è trovato a lavorare alcuni anni per la CIA, quindi già questi aspetti contraddittori danno idea di diverse realtà poliziesche incredibili, affascinanti, esperienze quanto mai più variegate tra di loro, e vengono raccontate, vengono interpretate anche con parole e musica. Fabio Troiano alla narrazione, Bati Bertoglio alla fisarmonica, Roberto Bonzaninga al contrabbasso. Ci sarà anche tanta musica a proposito di questo. Come verrà portato sul palcoscenico di Crevalcore, Fabio? Ma guarda, hai descritto molto bene tu la situazione. Saranno delle letture di tre indagini di Peppe Carvaglio, e queste indagini sono contrappuntate da musica, anche perché nella scrittura di Montalban secondo me c'è una musicalità particolare e tutto questo viene queste investigazioni private vengono seguite anche musicalmente per entrare ancora di più all'interno della storia, anche se non c'è via di scampo con la scrittura di Montalban, è un attimo e ti trovi catapultato all'interno di un'investigazione, anche perché il suo modo di scrivere è pungente ma è anche molto allegro e comico, sì, e tu ti ritrovi a ridere di cose che in realtà sono macabre. Sì, è l'originalità, secondo me, è tra le originalità di questo personaggio anche, perché sono racconti neri che però possono portare anche a un'ironia, a un'autoironia molto presente nella narrazione dedicata a Peppe Carvaglio a cura di Vasquez Montalban. Tutto ciò a Crevalcore con le letture, le interpretazioni di Fabio Troiano qua al telefono con noi, e quindi per quanto riguarda questo incontro e queste modalità di palcoscenico hai già un'idea, insomma, del pubblico, anche come ti aspetti reazioni del pubblico e cosa appunto hai da questo spettacolo, cosa ti ha dato e cosa vorresti dare, Fabio? Ma guarda, in realtà tutte le volte che faccio questo spettacolo, che facciamo questo spettacolo con i musicisti, si crea un'atmosfera molto intima che sembra di stare in un salotto di casa e leggere ad alta voce delle storie. E quando, leggi delle storie, a, non che il pubblico sia un bambino e non che le storie che uno legge sono storie per bambini, ma o non solo per bambini, ma quello che si crea è questo, è una cosa talmente intima e talmente delicata che è un'atmosfera indescrivibile, perché veramente il teatro non, o la sala e il palco non ci sono più, perché è tutto una cosa tra pubblico e chi legge. Sì, e poi ci sono tanti aspetti di cui parleremo dopo lo stacco musicale, se me lo consenti, o sei di fretta, Fabio? No, no, vai, vai, vai, tranquillo. Allora metto un po' di musica con i Call, non Cool, Call and the Gang, e questa sigla di una serie, di un telefilm, non mi piace chiamarle sitcom o altri nomi, insomma, che sono più contemporanei. Abbiamo, ricordate l'investigatore, a proposito di investigatori, Baretta, abile nei travestimenti. Ecco, questa era la sigla e io ve la propongo nell'interpretazione dei Call and the Gang. A tra poco. Don't go to bed with a price on your head. Don't do the crime if you can't do the time. Interpretazione di una nota sigla per l'investigatore Baretta, abilissimo nei travestimenti, visto che di un investigatore stiamo parlando, però dal lavoro di Manuel Vasquez Montalban parliamo di Peppe Carvalho. Te lo ricordi, Fabio? Baretta adesso è stato poco in Italia, questo investigatore abile nei travestimenti, insomma, è una serie blaxploitation, se vogliamo, per così dire, come epoca nella fine degli anni 70. Forse no, Fabio. Guarda, devo dirti la verità, no, non me lo ricordo. Non te lo ricordi, ok, ok. No, beh, anche perché io sono del 74, quindi avevo 6 anni. Un po' più giovane, ok. Beh, e che c'è di male, anzi adesso l'hai conosciuto magari anche solo con la sigla. Intanto, con le particolarità e le originalità di questo lavoro, mi soffermo su affascinanti esperienze gastronomiche. Ci puoi dire qualcosa di più? Perché io sono di bocca, insomma, sono una buona forchetta, ecco. Beh, diciamo che nelle varie peculiarità di Peppe Carvalho, Montalban lo fa essere anche esperto, e non solo esperto ma anche fruitore della buona cucina. Quindi in ogni investigazione di Carvalho c'è sicuramente la cucina, c'è sicuramente la descrizione di un piatto più o meno particolare, tant'è vero che poi Montalban scriverà anche un libro con le ricette di Carvalho. Quindi in tutto e per tutto quest'uomo esiste, c'è. Sì, gli ha dato un aspetto molto materiale, anche molto gustoso, se vogliamo. C'è chi porta la playlist, no? A volte nei libri o playlist. Qui c'è una playlist enogastronomica e non guasta mai, anzi, è un valore aggiunto. E per la stagione teatrale a Crevalcore, cartellone 3 teatri per te. Siamo all'Auditorium 1 maggio, per la precisione in Viale Caduti di Via Fani 300. Alle ore 21, Racconti neri, altre storie di Peppe Carvaglio. Direi che abbiamo detto tutto, Fabio. Se ho omesso qualcosa, ti lascio la parola prima dei saluti, se vogliamo appunto concludere questa piacevole conversazione. A te la parola. Ma io direi che non ci rimane altro che vederci mercoledì, certo. Mi raccomando, io ci sarò di sicuro, certo. Questo... speriamo che ci sarete anche voi. Indubbiamente. Io ti auguro una buonissima giornata e ci vediamo a Crevalcore. Grazie a voi, ciao. Grazie, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Tapioco, come se fosse Antani, sempre per due, parafrasando il grande genio di Ugo Tognazzi in Amici miei. Io mi congedo a voi ringraziandovi per l'attenzione, augurandovi un buonissimo weekend, e ogni promessa va mantenuta. Con la nebbia mattutina in seguito il sole arriva nonostante l'inverno per donare dei colori meravigliosi. Mantiene anche il jazz live, eh? Inizia il weekend, inizia già da questa sera al Torrione. Ufficialmente il 2024 parte con la stagione concertistica del Torrione. Avremo una presentazione generale con Francesco Bettini, l'entusiasmo di Federico Danneo, il presidente del Torrione. Avremo anche un approfondimento con Marta Raviglia per quanto riguarda la collaborazione con il Conservatorio e dei progetti molto vicino ai più giovani. Sarà un bel giro intorno al mondo della musica. Musica e non solo, anche intorno al mondo nel senso di estensione geografica e alla curiosità per quanto riguarda il buon gusto nella musica, dal Torrione Jazz Club di Ferrara. assolutamente puntuali alle 7, anzi già strutturata. Mancano i magazine, vabbè, devono ancora uscire, quindi permettetemi di dare uno sguardo ai magazine. Consiglio anche a voi, perché sono una compagnia durante il weekend assolutamente molto molto bella. Passare un bel weekend è sempre motivo di ripartenza con entusiasmo e anche con la capacità di affrontare la settimana che ci traghetterà da gennaio a febbraio 2024. E poi potete consigliarli anche a me al 333-180-9494. Ora abbiamo Lady Pen Enciclopedico, la pubblicità, dopodiché ci sarà Liberi Dentro, la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali. Per chi vuole ci sentiamo alle 11.30 con Jazz Live, se no l'appuntamento con il Breakfast Club è a lunedì per iniziare insieme una nuova settimana. Con un caloroso abbraccio vi saluto, un buon ascolto su Radio Città Fujiko e un buon venerdì dal vostro William Piana. Ciao a tutte, ciao a tutti.